Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Settimana nuova con l'Associazione Difesa Consumatori, problemi vecchi che sono quelli di aumenti di tariffe che noi continuiamo a monitorare e anche a denunciare in alcuni casi. La notizia era proprio di fine di settembre, con il 1 ottobre, come poi succede praticamente ogni 3 mesi, l'autorità per l'energia aggiorna le tabelle e tanto per cambiare la giornata in aumento per quanto riguarda elettricità e gas. Ne parliamo con l'Adico e col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, a luglio già erano aumentati, ad aprile erano aumentati, a gennaio erano aumentati, questo è il quarto aumento del 2012. Purtroppo sì, il quarto aumento che da lunedì gli italiani si troveranno a dover pagare nelle bollette della luce e del gas è il quarto aumento di cui l'Adico per la quarta volta quest'anno continua a gridare la propria indignazione di fronte a una speculazione che ormai non intende arrestarsi e di fronte a quelle che sono delle tariffe che ormai sono note, sono le più care d'Europa. Quantificando di quanto aumentano luce e gas? Allora, in termini di percentuale l'autorità per l'energia ha disposto questa volta un rincaro dell'1,4% per l'energia elettrica e dell'1,1% del gas. Secondo una famiglia media vuol dire che questo comporterà per le famiglie un aumento di 14 euro per il gas e 7,6 euro per l'energia elettrica. Questo solo per questo aumento, quindi senza contare tutti quelli precedenti? Beh, appunto, giusto per rendere il scenario ancora più incredibile, definiamo così per non dire scandaloso, bisogna dire che dall'inizio dell'anno tra la luce e il gas l'incremento è stato di 136 euro a famiglia. Quindi sommando questi 22 euro del nuovo aumento, le famiglie si troveranno a pagare in più rispetto all'anno scorso la ben modica cifra di 158 euro. 2011 su 2012, questo è il confronto, no? Un anno di aumenti si traduce in questo, consuma ovviamente immaginando che uno consumi sempre la stessa quantità di energia. Sì, chiaro, rispetto a quello che le famiglie l'anno scorso hanno pagato in termini di energia elettrica e di gas, quest'anno, come hai detto tu, dovranno aumentare di 158 euro. Chiaramente queste sono le stime che ha fatto l'autorità, ma noi riteniamo che queste cifre sono ben peggiori rispetto a quelle dichiarate dall'autorità, come detto, anche perché è un aumento che è stato fatto per effetto della speculazione che in questi mesi il petrolio ha subito e che i consumatori anche sulle bollette lo stanno subendo, oltre che nel fornimento dei prezzi del carburante. Dei prezzi alla pompa, insomma, parliamo già in altri spazi. Ragiono sul fatto che soprattutto per il gas adesso tra pochi giorni, insomma, vediamo come va la stagione, come va il freddo, ma in teoria dalla metà di ottobre si potranno tornare ad accendere gli impianti di riscaldamento. Noi speriamo ovviamente per risparmiare che ci sia un po' di coda di estate, in modo che almeno lì si possa limitare, altrimenti non è che uno può stare al freddo perché il gas è aumentato. Oppure secondo te ci saranno cambiamenti anche nelle abitudini? Ah, certamente quello che hai detto è un quadro che si riassume un po' tutto quello che è la situazione, perché allora, permettendo che l'aumento del gasolio e della benzina è stato di oltre il 20% nell'ultimo anno, come hai detto tu, questo comunque va a ripercuotersi sulle bollette. Chiaramente alla vigilia di un inverno, l'augurio che le persone si possano fare è che questo inverno non abbia delle temperature rigide ma si mantenga più mite possibile, perché questo sicuramente si può tradurre in un ottimo risparmio. Certamente per contenere questi risparmi non ci sono moltissimi consigli se non quello di poter invitare le persone a tenere un grado meno rispetto all'anno scorso, ma certamente a non soffrire il freddo, perché ci sono poi delle situazioni in cui magari ci sono condomini in cui ci sono degli impianti centralizzati in cui magari le persone si trovano a dover tenere le finestre aperte, ma ci sono anche delle situazioni in cui delle famiglie che abitano su altre case, su altre tipologie, sono costrette a scaldarsi con la vecchia stufa a legna per non accendere e non consumare gas, per non pagare bollette che ormai sono sempre più esorbitanti e quasi insostenibili. Per quanto riguarda invece l'energia elettrica, già altre volte abbiamo dato delle indicazioni. Ovviamente bisogna lavorare su quegli apparecchi che assorbono più corrente, quindi penso ai grossi elettrodomestici, lavastoviglie, lavatrice, questi, no? Quando si tratta di risparmiare, amico, io devo sempre evitare di dare risparmi che inducano il consumatore a spendere altri soldi, perché è chiaro che il consiglio principe è quello di adeguare gli elettrodomestici in classe A, ma non si può pensare che possa dire ai consumatori di cambiarsi frigo, lavastoviglie o caldaia per poter risparmiare. Però è vero che certi piccoli accorgimenti, quali spegnere gli elettrodomestici che di notte stanno in stand-by, oppure cercare di utilizzare gli elettrodomestici in certe fasce orarie rispetto ad altre, oppure anche per il gas come l'energia elettrica, individuare dei contratti che in questa giungla di offerte possono essere più confacenti alle proprie esigenze, certamente può dare un aiuto a risparmiare. Per ultimo, ricordiamo che oggi per acquistare una casa c'è l'obbligo della dichiarazione della classe energetica. La classe energetica inizia dalla A e finisce con la G, a seconda della classe, questo ci può fare risparmiare molto sulle bollette, quindi anche i consumatori che prestino particolare attenzione, coloro che decidono di acquistare un immobile o di andare in affitto, di richiedere la classe energetica, perché A è il massimo, G vuol dire che c'è praticamente una dispersione che comporta dei notevoli dispendi per poter mantenere o riscaldare la propria abitazione. Tocco un altro aspetto, poi magari ne parleremo più specificamente. Le lampadine, siamo abituati ormai da qualche anno alle lampadine a basso consumo, ma se non sono informato male, nel 2016 anche quelle andranno fuori legge e dovranno essere sostituite da quelle a LED. Già le vecchie lampadine che noi eravamo abituati, come il famoso filo che si riscalda per effetto di una dispersione di energia elettrica, è stato bandito pochi giorni fa. Quelle che dici tu sicuramente verranno bandite nel 2016, quelle che ci sono oggi comunque possono già permettere di ottenere la stessa luminoscenza, comunque risparmiando moltissimo se non pochi watt. E comunque sempre con attenzione, insomma. Poi un giorno parleremo, ti lancio lì un tema, delle tariffe monorarie e biorarie, perché secondo me non c'è una grandissima differenza. Così, è una impressione, ma casomai indagheremo meglio. Per oggi allora ci fermiamo qui con l'Adico, ci sentiamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie Carlo. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.